Nuova puntata di Senza Frontiere in onda in diretta qui da Radio Wombat il lunedì alle 13 e la potete riascoltare in replica il martedì e il giovedì alle 14 e il mercoledì e venerdì alle 13. Inoltre, nel caso non avesse sentito né la diretta né le repliche successive, potete riascoltarla in podcast andando alla sezione podcast del sito di Radio Wombat, che ricordiamo è wombat.noblogs.org. Scorrere il menu a tendina, ci sono le trasmissioni, i podcast delle trasmissioni delle varie rubriche di Radio Wombat, fino appunto a trovare quella Senza Frontiere, e da lì potete riascoltarle in podcast oppure scaricarle e riascoltarle successivamente. Una trasmissione particolare questa qui, perché è frutto di una discussione avuta con rappresentanti dell'organizzazione di sostegno alla lotta del popolo Sahrawi, ma che a causa delle particolari condizioni ambientali in cui è stata registrata la discussione abbiamo dovuto mettere in fila alcuni brani, alcuni pezzi della trasmissione per ricostruire e dare il senso di quella che è stata la discussione. Ce la sentiamo subito, buon ascolto. Buonasera a tutti, scusate, io non dire due o tre parole. Io sono Dubat, una ragazza sahrawi. Vengo dal campo dei profughi rifugiati. Siamo vivere da un deserto dove non c'è nulla, deserto di Algeri. Siamo dal 91 che fermata la guerra con Marocco, noi giovani oggi pensiamo, anche i nostri fratelli, cugini, amici, tutti pensano solo, vogliono la guerra, vogliamo solo la guerra, perché non c'è soluzione. Con Marocco non c'è soluzione, c'è solamente la guerra, perché i nostri genitori, i nostri nonni, nostri zii, tutti i Sahrawi sono fatti la guerra con loro, e poi c'entra l'Unione, hanno fermato questa guerra e poi loro non indicano niente dopo. Non possiamo stare in un deserto dove non c'è nulla, un deserto non c'è futuro, non c'è lavoro, non c'è medicina, non c'è niente. E io non posso parlare più, perché quello che volevo dire stasera, volevo dire tante cose, però mi dispiace, non parlo questa lingua tanto bene. C'è tante cose nel mio cuore volevo dire, però non parlo bene. Comunque, grazie mille per voi, grazie per la vostra aiuto, grazie per tutte le associazioni che stanno con noi da tanti anni fa. E niente, grazie mille. Il problema giovanile. Il problema giovanile, differentemente dalle persone che nel 75 hanno combattuto contro il Marocco, dopo essere contro, sono stati invasi dal Marocco, che cosa c'è? E questo si lega un attimino anche alla nostra storia dei partigiani, alla nostra resistenza. Succede questo, che chi ha combattuto, chi ha avuto morti, famiglie, eccetera, in qualche maniera vuole arrivare a una risoluzione democratica, appunto, con questo referendum. Il problema dei giovani invece è tutto l'opposto. I giovani ormai praticamente da due generazioni, da tutta la vita, sono nati in cattività, sono nati in campo profughi. Cioè, io ora non abbiamo la possibilità né di proiettare niente, eccetera, ma insomma forse avrete visto già qualche cosa. Cioè, non hanno prospettiva, non hanno futuro, e pertanto, come tutti i giovani che chiaramente hanno un sentimento sempre un po' più di ribellione rispetto a noi più attempati, che cosa fanno? Cercano effettivamente di ritornare a pugnare armi, cioè tutti vivere anche da parte della Croce Rossa spagnola, degli aiuti internazionali, praticamente sono dimezzati. Cioè, non arriva più niente. Io mi ricordo quando si scaricava i primi anni i sacchi degli aiuti umanitari, si stava giornata intera a scaricare roba. Cioè, allora, lì sono divise in province, praticamente, tanto per, insomma, sono circa province che trattano gli stessi nomi. In Algeria. Noi, popolo Sahrawi, vive nel sud, vivono ora, diciamo, i campi rifugiati nel sud dell'Algeria, al confine della Mauritania, nel deserto dell'Almada. Allora, diviso in province, all'interno delle province poi ci sono le varie comunità. Allora, hanno un governo, un presidente della Repubblica, hanno ministri, hanno tra l'altro dei sindaci per ogni vilaia. È molto importante, diciamo, il loro consiglio comunale, chiamiamolo consiglio comunale, è formato quasi strettamente da donne. Infatti mi sembra che le donne hanno un ruolo importantissimo, pensare, molto importante. Non ultimo, a cominciare anche dalla distribuzione dei viveri. Sono le donne che lo fanno, chiaramente hanno una sensibilità diversa. Il discorso è che quello che prima serviva per una famiglia, ad oggi dovrà servire per più di una famiglia, per 2, 3, 4, 5 famiglie, e si scambiano veramente il sacco della farina. Oggi mangio io, domani mangiate voi. I paesi che sostengono questa occupazione, e quindi la Francia, la Spagna, che nessuno ha rammentato fino ad ora, sì, ma c'è anche la Spagna, non c'è soltanto la Francia. Quello che queste nazioni qui, questi popoli qui, hanno comunque benefici da trarre da questa occupazione che il Marocco sta mettendo in piedi, in atto, nel territorio del Sahara occidentale. Che non dimentichiamoci, è vero che era l'ultima colonia che è rimasta in Africa, ma è ancora una colonia. Perché? nonostante gli spagnoli siano andati via, c'entra i marocchini. Quindi la situazione del Sahara occidentale è rimasta quella era. Hanno cambiato padrone, ma comunque un padrone che hanno lo stesso. L'idea da poter lanciare come associazioni, quindi come insieme di persone che sostengono questo popolo, di lanciare una campagna di boicottaggio dei prodotti che gli spagnoli, i marocchini vendono all'estero, ma che però sono prodotti nei territori cubani. E abbiamo scoperto, è la notizia di oggi, che anche alla HOP vendono dei prodotti che vengono dal Dara. I gamberi congelati che vendono alla HOP, c'è scritto, è l'unico prodotto del quale c'è scritto origine, e c'è scritto Dara. Non c'è scritto Marrakesh, quindi cioè, chiaramente quello è un prodotto sul quale veniva fuori, non è venuto fuori lì perché non ha lamentato nessuno di questi gamberi, è venuto fuori in questi giorni, però era l'unico sicuro, oltre magari alle grosse aziende che ci hanno detto in quell'occasione che hanno rapporti di carattere economici anche molto stretti e di sfruttamento anche del Sahara occidentale occupato attualmente da Marocco, come i risarcimenti, come la stessa Enel, quindi ci sono delle grosse strutture anche economiche nostre che utilizzano, no? indirettamente i soldi, quello che viene fuori da questa situazione. Quindi si sta complicando ancora di più la situazione. Perché fino ad ora c'era chi pensava che forse ci poteva essere, ora invece non c'è più il pensiero, ora c'è la certezza che quelle cose lì avvenivano. Grazie a questa associazione che non conoscevo nemmeno, tra l'altro, non avevo mai sentito nominare, che è uno svedese, sì, che ci ha detto queste cose qui, tra l'altro documentandole, non facendo vedere che una nave che trasporta sabbia o fosfati dal Sahara occidentale per portarlo nei paesi che hanno bisogno, una nave di sabbia vale $1 milione. La sabbia è nostra, che è sempre più. Voglio dire, sono venute fuori, ma non con i discorsi, con le foto delle navi, con le iniziative che hanno fatto per bloccarle, perché come voi sapete ci sono state ultimamente, c'è stata anche una sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha detto che assolutamente nessun prodotto può uscire dal Sahara occidentale se non è autorizzata l'esportazione da parte, però così, da parte del Sahara stesso, non dal Marocco, del Sahara. Quindi si sta complicando sempre di più questa cosa. Noi siamo infatti le iniziative che si sta facendo sono molto stringenti. In questi campi si parla di 200.000 persone circa, 180-200.000, nei campi dei rifugiati. Complessivamente la popolazione sahrawi sarà, perché non abbiamo nemmeno noi, sarà 1 milione, grosso modo. Cioè, 1 milione e 2. Fra quelli che sono nei campi appunto dei rifugiati, fra quelli che vivono nel Sahara occidentale liberato e fra quelli che vivono nel Sahara occidentale occupato. E questo è un numero imprecisato, proprio quello è misterioso, non si sa. Si presume appunto che siano complessivamente un milione di quelli. Non c'è una persona che esce da quei campi per non tornarci più. Perché anche quelli sahrawi che vivono nei paesi del mondo, al di fuori del territorio sahrawi, in Spagna, hanno rappresentanze politiche in tutti i paesi, in quasi tutti i paesi del mondo, o se no, oltre a queste persone diciamo, che rappresentano politicamente il popolo sahrawi, esistono una grande quantità di gente, tanto per capirsi, che sta all'estero ma perché studia. Sta all'estero a studiare, non è che si siano laureati sotto le tende per i medici ci sono all'ospedale militare, si sono laureati in paesi del mondo. Quindi, no, e quando hanno finito di studiare, quando hanno finito di laureare, la stragrandissima maggioranza di questi giovani, di questi ragazzi, di queste persone, ritorna nei campi. Perché nonostante i governi che ci stanno in Italia, centro-sinistra, sinistra, centro-destra, la situazione è rimasta completamente invariata. Cioè, non si parla proprio di riconoscere né questo popolo, nell'occupazione. Quando noi si dice c'è bisogno, lo diceva anche lui, c'è bisogno di sostenere politicamente questa vicenda qui, questa storia qui, anche perché le nostre, purtroppo, le nostre strutture politiche, quelle ufficiali, non fanno nulla, non fanno nulla nei confronti di questo. Quello che il popolo sahrawi vuole, chiaramente la nostra nazione, è essere riconosciuto come Stato. Non si uscirà da questa situazione mai fino a che la Francia no, userà il diritto di... Ah, questo è da raccontare, via, per un segreto. La Francia, se le associazioni, le organizzazioni mondiali che aiutavano il popolo sahrawi continuavano a sostenere che la MINURSO, che è una forza dell'ONU multinazionale presente in zona, che deve rispettare soltanto che la tregua può osservare, soltanto che la tregua venga applicata, la tregua stabilita 30 anni fa, non può assolutamente interessarsi del rispetto dei diritti umani, che sono la cosa che viene giornalmente stracciata in tutte le strutture che sono sotto la giurisdizione marocchina. Allora, se noi chiedevamo e pretendevamo di mettere all'ordine del giorno il mandato della MINURSO, si rinnova, prima si rinnovava ogni 6 mesi, ora ogni anno, insomma, comunque, e in quel rinnovo ci sono i compiti che questa forza deve, questa forza c'è anche dei rappresentanti italiani, i compiti che questa forza deve svolgere. Se si chiedeva che la MINURSO dovesse interessarsi anche del rispetto dei diritti umani, la Francia avrebbe imposto il suo diritto di veto. No, è chiaro che non è stata presentata, perché poi, cioè, di fronte a una cosa, se lo presenti, io metto il diritto di veto, che lo metta a fare, insomma, voglio dire. Perché in tutta questa storia c'è un riconoscimento internazionale del fronte del Polisario, c'è un riconoscimento internazionale che i sahrawi sono legittimi abitanti, legittimi provenienti da quel territorio, però non si sa come mai in quel territorio non ci possono tornare, né tantomeno possono poter fare il famoso referendum di cui vi stavano parlando Mastro Giacomo e Carmelli. Per cui stanno cercando in tutte le maniere illegali del fronte del Polisario, che è il partito di maggioranza della Repubblica Araba Sahrawi Democratica, che è quello che ha guidato la resistenza del popolo sahrawi, quello che ha fermato i patti di pace. Tra l'altro il babbo di Dubat è un partigiano, va bene? Per cui è il nonno. È quello che in qualche maniera rappresenta la maggioranza della democrazia sahrawi, ed è riconosciuto come i rappresentanti che, pur non riconoscendo la Repubblica, si riconosce il fronte del Polisario come rappresentante. Cioè, ci sono in tutta questa vicenda, a parte gli aspetti politici, anche gli aspetti di diritto internazionale. Infatti, perché tantissimi ragazzi fanno le loro tesi di giurisprudenza o di diritto internazionale sul popolo sahrawi? Perché è una contraddizione infinita, è talmente chiaro che quella terra è loro, ma è talmente chiaro come queste persone tutti questi anni hanno fatto in modo che riconoscono il diritto, però non fanno nulla per poterglielo far esprimere, per cui è proprio una cosa paurosa. Ed è quello che il fronte del Polisario ha cercato di fare nei primi anni della guerra, di resistenza, quello di cercare un'alleanza con il Partito Socialista di quei tempi, del Marocco, per poter liberare il Marocco dal regno e poter essere repubblica. Che non si può fare la guerra fra poveri, ma bisogna in tutte le maniere sconfiggere quello che poi è sempre stata la causa del potere in Africa, ma anche in Europa. In questo caso il regno del Marocco re, che fra l'altro nel 1995-96 c'era ancora il vecchio, il padre, e sembrava, giusto Marco, ci siamo insieme, che il figlio avrebbe in qualche maniera facilitato invece il percorso del Sarau, cosa che ha fatto peggio del padre, per cui è appunto, per cui voglio dire, io vedo che anche i fatti che stanno succedendo adesso nel territorio occupato, si chiamano così quei territori, dove il Marocco sta cercando di portare un po' come in Israele o palestinesi contadini, operai di origine marocchina dentro, facendoli passare per sarawi in quei territori che noi chiamiamo occupati dal Marocco. Perché voleva fare questo? Per poter gestire poi il referendum in maniera diversa. Perché il referendum, nonostante siano passati 30 anni, ancora non si fa? Perché la Minurso si è trovata a un certo punto in questa situazione in cui il Marocco metteva dentro persone che dicevano di essere d'origine sarawi, in realtà non sono, per cui un'impossibilità di mettere in moto tutta una serie, perché non lo vogliono un po' alla fine, no? Non lo vogliono, però c'è anche questa difficoltà. Noi, gli operai comunque che lavorano insieme a sarawi sono persone che si rendono conto di questa difficoltà. Se non si parla con gli immigrati che oggi vivono a campi d'origine marocchina, non partecipano alle nostre manifestazioni per il riconoscimento dei diritti dei sarawi, ma ci portano il tè. La Spagna è una contraddizione, la Spagna che non ha ai tempi della colonia, non ha permesso, come ha fatto la Francia, di liberare questo popolo, nel senso che doveva, con un atto, per esempio che conosceva Franco, dire che il popolo sarawi era il legittimo abitante di quei territori. Si doveva certificare che quel pezzo di Bologna era spagnola. Se ne andò, lasciando tutto in Baria dei Venti, e a quel punto la Mauritania e il Marocco cercarono, in nome della religione, famoso diritto verde, cercò di occupare il pezzetto del Sahara occidentale. Una parte, lo sapete, che stava liberato, però è pieno di mine italiane e non l'abbiamo viste, cioè la Federia è già venuta due volte, per cui si è ben resa conto di quello che abbiamo davanti, e lo stanno sminando pian piano. Però è chiaro che accettare da parte del fronte del Polisario, che adesso è in Algeria ospite, di andare a portare le persone in quella fascia del territorio liberato, anche se in parte sminato, significa accettare di non chiedere più il proprio diritto a riprendersi anche l'altra parte, dove siamo, perché lo sbocco sul mare è minimo, per cui gli verrebbe negato comunque una ricchezza per tutta la parte della pesca. I fosfati in parte li può riprendere, ma poco. I maggiori acquirenti dei fosfati sono francesi. Ci parlavano di tonnellate di fosfati e vanno in Canada, per cui non solo francesi. Cioè, nonostante la colonia non ci siano più, esiste il sistema coloniale sempre. Ci sono dei paesi del mondo, ci sono dei cittadini di questo mondo che non hanno il diritto a un'identità nazionale. Non solo non una polide, ma non essere neanche polide, neanche quello. Non essere. Non essere. Dubai, per venire qua, ha un passaporto argentino che deve pagare. Le vedi, forza volere un masse. Gli esceidri, zaharza. Siamo massi d'antichè. Sahara. Libertà. Sahara. Libertà. Sahara. Libertà. Chicayu.